Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti gastronauti vicini e lontani. Ebbene, oggi parleremo di uno dei miti italiani della tavola. Parleremo di pizza anche perché ultimamente, con una trasmissione televisiva, Report, che fa inchieste diciamo molto efficaci, è stato un po' offuscato questo mito, nel senso che si sono viste anche così delle brutture della pizza. Ma io credo che il mondo della pizza non sia tutto così, anche se le ombre ci sono, e come. Oggi cercheremo di parlarne, diciamo, con meno spirito di inchiesta, di andare a trovare così delle magagne, ma vedremo se quelle magagne sono diffuse o non sono diffuse. E allora cominciamo questo giro. Ricordo il numero per intervenire, perché credo che di pizze siano molti che se ne intendono, che pensano di intendersi: 800 24 00 24 349 238 6666 per gli sms. Bene, io voglio cominciare da Napoli, ovviamente, la capitale indiscussa della pizza. Voglio cominciare da Antonio Pace, che è presidente dell'associazione Pizza Napoletana Verace. Buongiorno Pace. Buongiorno a tutti. Pace, voi come associazione avete lavorato a lungo per un disciplinare STG per la comunità europea, quello lì, diciamo, il riconoscimento come piatto, e devo dire che se uno va a leggere così i punti di questo disciplinare, insomma, si pensa veramente che sia molto difficile da poterlo osservare, perché ci vuole olio campano, ci vuole pomodoro campano, insomma, diciamo che delle restrizioni che probabilmente in giro per il paese sono molto difficili da poterle applicare. Ecco, non le sembra che, diciamo, quel disciplinare sia un po' troppo stretto? Invece bisognava così chiudere i cordoni della borsa, come si dice, in maniera un po' più larga, per permettere appunto che qualcuno potesse osservarlo anche fuori di Napoli? Ma guardi, noi dell'associazione Verace Pizza Napoletana in effetti portiamo avanti il nostro disciplinare Verace Pizza Napoletana, che chiunque può ritrovare su internet, che è stretto, ma è stretto principalmente nei metodi di lavorazione della pizza. La pizza noi intendiamo l'impasto e disco di pasta quando esce dal forno, poi i condimenti, diciamo, lasciamo una certa libertà. Quindi lasciamo perdere un attimo l'STG, perché oltretutto per me l'STG non è certamente la panacea per la pizza. Purtroppo in Italia non si è potuto avere, perché siamo partiti tardi, una vera protezione per la pizza napoletana, tant'è vero che attraverso Report abbiamo visto lo scempio che se ne fa di questo nome un po' in tutta Italia, insomma, questo è il problema. Sì, ma anche a Napoli, non togliamo Napoli. No, però. Attenzione, a Napoli ci sono senz'altro dei difetti, li hanno riscontrati, e io ho commentato semplicemente che probabilmente le critiche servono a migliorarsi. Quindi certamente bisogna stare più attenti. Noi come associazione abbiamo controllato molto lontano da noi, abbiamo controllato gli associati americani, gli associati giapponesi, gli associati australiani, e forse abbiamo pensato male che sotto casa nostra non era necessario un controllo così stretto, ma adesso l'abbiamo iniziato. Tutte le pizzerie a noi associate a Napoli, iniziando dalla mia, cioè Santa Brigida, sarà controllata. Da noi. Certo, voi potrete controllare sicuramente la pizza, diciamo, fresca, ma io credo che chi debba controllare la pizza spacciata per fresca surgelata debbono essere altri, e io credo che qui veramente i controlli, ancora una volta, in questo paese esistono sulla carta, ma non esistono poi nella realtà. Comunque anche questo ne parleremo. Sono già pieno di telefonate, lo sapevo che la pizza poteva così provocare grande interesse, ma io a questo punto voglio parlare di farina, perché diciamo che la pizza ha tutta una serie di componenti importanti, tra cui la farina è uno dei principali. Allora, io ho sentito durante quella trasmissione una cosa che mi ha fatto un po' sobbalzare, che la farina 00 è accusata di avere troppo glutine. Allora io ne parlo con Riccardo Agugiaro del mulino Agugiaro e Figlia di Padova, che sicuramente è uno dei mulini più importanti per la pizza. Buongiorno Agugiaro. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ecco, secondo lei ha sentito questa cosa, che la farina 00 è accusata di avere troppo glutine? Sì, allora, sicuramente Report è stata una trasmissione che ha messo in luce delle difficoltà e dei problemi, però la pizza così come la conosciamo è un prodotto perfetto ed è assolutamente nutriente, se fatta bene, se fatta con gli ingredienti giusti. La farina 00 non è assolutamente una farina dannosa alla salute, sicuramente le farine integrali sono sicuramente migliori dal punto di vista nutritivo, però la farina 00 non è dannosa alla salute. Quello che può essere dannoso sono delle lievitazioni sbagliate. Quindi lievitazioni corte e lievitazioni che non rispettano i normali procedimenti e i tempi di maturazione. Senta, ma in questo momento voi come Molini vi renderete conto, c'è un grande boom della pizza, forse anche per la situazione economica? Il boom della pizza c'è sempre stato, adesso la pizza è finita sotto i riflettori, ultimamente grazie anche a trasmissioni televisive il pizzaiolo ha avuto un po' il suo riconoscimento che da tempo forse aspettava. Quindi c'è uno sviluppo, c'è più attenzione, quindi c'è anche più ricerca ed è per questo forse anche c'è più ricerca nell'utilizzo di ingredienti diversi che possono essere più nutritivi e migliori. Noi da sempre, già dagli anni 90, facevamo delle farine tutto corpo e integrali e venivano purtroppo poco utilizzate perché il sapore era diverso da quello della pizza tradizionale. Pizza, sempre pizza, fortissimamente pizza, già tante le telefonate. Antonio da Matera, un radioascoltatore, visto che Matera è stata proclamata la città della cultura per il 2019. Buongiorno Antonio, prego. Buongiorno a tutti da Matera, città capitale europea della cultura, sì, per il 2019. E a Matera, se si parla di cultura, si parla anche di pizza, perché si può essere anche dei bravi pizzaioli senza essere di Napoli. E il mio contributo alla trasmissione è per migliorare la qualità della pizza, perché io sono un vecchio pizzaiolo, la mia è la scuola napoletana degli anni 70, ormai scomparsa dai banchi del pizzaiolo, ma spero che ricominci a riapparire. Quello che volevo segnalare è un problema che spesso vedo sui banchi dei pizzaioli quando vado in giro, vedo questi banchi pieni di farina. Secondo me lì è uno dei grossi problemi dove si gioca la digeribilità della pizza. Siamo d'accordo che dobbiamo avere i migliori ingredienti e le migliori lievitazioni, però la pizza si gioca sul banco del pizzaiolo, è il pizzaiolo che decide la pizza. Quindi se il pizzaiolo usa molta farina nello spolvero, la farina si attacca al disco della pasta e non solo provoca i danni che ha messo in evidenza la Report, che si sporca il forno, si vede la fiammata e tutto quanto, ma crea un problema di digeribilità, perché la farina che si attacca all'impasto dopo va, finisce nel nostro stomaco senza che viene lievitata, per cui il bravo pizzaiolo deve saper lievitare, deve saper stendere il disco di pasta senza farina. Questa è l'arte del pizzaiolo. Grazie a questo contributo così colto di Antonio da Matera. Ma io ora ho un pizzaiolo molto noto e anche come tecnico, diciamo, è molto riconosciuto un po' da tutti, napoletano ovviamente, Enzo Coccia della pizzeria La Notizia e La Nuova Notizia di Napoli. Buongiorno Enzo. Buongiorno, ciao Davide, buongiorno a tutti i gastronauti d'Italia. Grazie. Amiche e amiche. Allora, con Enzo, prima della trasmissione, ieri, abbiamo fatto una lunga chiacchierata e io vorrei che Enzo ripetesse quello che mi ha detto. Enzo dice, qui c'è una mancanza di cultura professionale, sia sulle bruciature, sia su tutto il resto. Enzo, è così che la pensi, vero? Io sono consapevole di una cosa, che un comparto come quello della pizzeria in Italia, che raggruppa 25.000 esercizi commerciali, questi sono dati della Fibcommercio, e 150.000 addetti, con 5 miliardi di fatturato, ha bisogno di una vera e propria rivoluzione. Che cosa significa? Se noi ci ragioniamo in funzione di cultura, proprio l'altro ieri tu dicevi il fatto di Matera che è stata nominata capitale della cultura, noi abbiamo bisogno di cultura gastronomica sul settore della pizza. Gli istituti alberghieri in Italia sono praticamente asciutti a nudo sulla cultura gastronomica nel settore della pizza. Fanno di tutto, fanno cucina, fanno bar, fanno sala, ricevimento, ma sulla pizza napoletana e quindi la pizza italiana non c'è nulla. Ci sono 200 ore di lezione, ma che servono? E tutti gli altri addetti? Questo è il problema. Bene, rimani con noi perché abbiamo tante telefonate. 800 24 00 24, Francesco da Vicenza. Buongiorno Francesco, prego. Sì, buongiorno. Ma io per un lungo periodo ho smesso di frequentare le pizzerie, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro, quando il prezzo delle pizze era raddoppiato, perché da 4 euro, da 4.000 lire che costava una margherita, improvvisamente era diventata di 4 euro. Ma ho smesso non per questo motivo qua, ma perché la pizza mi era indigesta. Io pensavo che si trattasse di un problema mio personale, e invece poi dopo ho scoperto che nonostante il raddoppio del prezzo della pizza, la qualità degli ingredienti era la causa principale del fatto che mi provocasse bruciori, rigurgiti, insomma era indigeribile. Quindi, seguendo un po' il consiglio di amici, ho selezionato delle pizzerie e devo dire che ci sono effettivamente bravi pizzaioli, ottime pizzerie dove veramente si digerisce, insomma. Si digerisce, ma c'è il rispetto delle combinazioni alimentari, perché questo è importante, perché già la pizza non rispetta più di tanto le combinazioni alimentari. Se per di più poi dopo vengono utilizzati ingredienti di scarsa qualità, e allora certo, poi dopo è un cinghiale sullo stomaco. Bene, davvero. Caro Francesco, io credo che la digeribilità sia la prima qualità che debba avere una pizza, ma poi ne parleremo ancora. Ma io ora voglio andare da un tecnico, da un esperto, voglio andare da Alfonso Siani, ricercatore dell'Istituto di Scienza dell'Alimentazione del CNR, perché diciamo che le bruciature, la famosa pizza bruciata, hanno attirato molta attenzione, molti si sono un po' spaventati. Allora voglio chiedere ad Alfonso Siani appunto questo punto, ma la pericolosità appunto delle bruciature della pizza. Buongiorno Siani. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. C'è un punto della trasmissione, una trasmissione che ha mischiato un poco di cose insieme, insomma, non sempre con l'opportuna competenza, ma in ogni caso il discorso delle bruciature è un discorso che può avere una validità se uno mangia una pizza completamente bruciata, che non dovrebbe essere. Il disciplinare della pizza, ma anche senza volerlo seguire alla lettera, prevede che la cottura degli ingredienti sia effettuata a una temperatura che è inferiore ai 100 gradi, forno è a 450 gradi, ma gli ingredienti non devono raggiungere i 100 gradi, a 100 gradi non si bruciano, quindi il discorso di eventuali piccole bruciature assolutamente non è pericoloso per la salute. È un discorso che può valere per tutti gli alimenti, certo, in certo, misura molto maggiore per le grigliate. Tutto quello che viene messo su una griglia per definizione si brucia in parte, quindi dovremmo demonizzare la fiorentina, dovremmo demonizzare le salsicce alla brace, la grigliata di pesce e questo. Poi volevo far presente che proprio pochi giorni dopo della trasmissione incriminata, la trasmissione che ha suscitato tanto interesse, l'Istituto Zooprofilattico ha effettuato una prova non analizzando solamente la parte bruciata, ma omogenizzando la pizza nel suo insieme e analizzando la presenza di residui carboniosi combusti nell'omogeneità, e siamo molto al di sotto dei limiti che la Comunità Europea ci impone per questo tipo di possibili tossici alimentari. Siani, lei ha perfettamente ragione di aver mescolato tanti argomenti, perché se le dovessimo vedere tutti, anche ad esempio l'olio, ci sarebbe un capitolo a parte da toccare sull'olio, sulla mozzarella, sul pomodoro. È vero, bisognava invece, forse bisognerà anche in futuro approfondire punto per punto. Molte volte una trasmissione sicuramente di un'ora non riesce a farlo. Comunque lei ha perfettamente ragione. Sentiamo Giuseppe da Pescara, un radioascoltatore. Buongiorno Davide, salve, io lavoro nell'azienda familiare dove noi produciamo basi precotte per pizza. Io per la mia esperienza le posso dire che la farina sì è importante, ma per quanto riguarda la digeribilità è molto importante la lievitazione. Per quanto poi riguarda la farina, io penso che il problema sia a monte, perché parliamo della pianta in sé per sé che può creare problemi, dato che oggi per fare una pianta di grano bastano solo 30 giorni. Io penso più che sia lì il problema. Bene, 800 24 00 24, per chi volesse intervenire. Io voglio tornare a Coccia e poi anche a Siani con questo, secondo me, interrogativo che è il più importante. Ma da che cosa dipende la digeribilità o meno di una pizza, Enzo? Allora, tutti sanno che praticamente per aumentare il volume del panetto c'è una reazione biologica, quindi anidride carbonica sviluppata dai lieviti, in parole semplici. Se noi aumentiamo la quantità esponenziale di lieviti, noi avremo delle lievitazioni breve. Se noi diminuiamo i lieviti, quindi diminuzione di anidride carbonica per sviluppare la massa del panetto, noi avremo delle digeribilità e delle praticamente lunghezze di lievitazione, che poi avremo una maturazione dell'impasto ottimale. Quindi bisogna partire da 12-14 ore di lievitazione. Siani, secondo lei è uno dei problemi principali la digeribilità di una pizza? Ma è un problema, ma mi sembra che il... Lo chiamerei il collega pizzaiolo, che è un tecnico, ha ben descritto qual è il problema. Ovviamente ci sono delle persone che possono avere delle intolleranze individuali a alcune delle componenti, senza parlare dell'intolleranza al glutine in senso stretto, di celiachia, sì, certo, eccetera. Ma ci sta, possono essere intolleranze ai componenti del latte, alle proteine del latte, quindi alla mozzarella. Quindi questi sono discorsi individuali. Una buona pizza lievitata bene e prodotta con elementi di qualità, voglio dire, non eccezionale ma standard, non dovrebbe portare problemi di digeribilità, se chiaramente uno non lo associa poi nello stesso pasto. E la pizza è un pasto completo, non dimentichiamocelo: se uno prima della pizza si fa un vassoio di fritture, oppure dopo la pizza si mangia dessert in abbondanza, è chiaro che il tutto poi può portare dei problemi. Ma la pizza in sé per sé è un piatto unico e come tale dovrebbe essere, da un punto di vista nutrizionale, considerato. Quindi io direi che il discorso della digeribilità, poi tutta la storia della farina doppio zero, la farina doppio zero si usa per la pizza, poi se uno vuole fare la pizza con le fibre, uno può fare anche la mortadella di Bologna con le proteine della soia, sono due discorsi diversi. Chiaro. Noi parliamo di un prodotto tipico che va fatto in una certa maniera e va fatto bene, su questo è importante focalizzare l'attenzione, la professionalità. Va fatto bene. Bene, grazie a lei e grazie a Enzo Coccia. Sentiamo Bruno da Roma, un radioascoltatore. Veloce, Bruno. Sì, volevo parlare di ingredienti. Mi capita spesso di sentire che anziché la mozzarella viene utilizzata nella pizza come un surrogato o qualcosa che non ha niente a che vedere col formaggio. E guarda caso riscontro che poi la digeribilità diventa difficile in coincidenza con questo. E quindi volevo sapere se questi alimenti, rogati, sono ammessi, fanno male, e se non dovrebbe essere obbligatorio per chi fa pizza, soprattutto pizza a taglio, di usare la mozzarella vera anziché grattugia. Cioè, l'obbligatorietà non c'è, c'è l'obbligo di usare della qualità di prodotto, questo sì, anche se non è mozzarella di bufala campana di OP, sicuramente di cercare il meglio dei formaggi, a meno anche solo mozzarella, insomma. Altri surrogati non saprei quali possono essere. Sentiamo Piero da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Piero, prego. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì. Ho voluto chiedere di poter intervenire perché non so se ne aveste parlato prima della mia telefonata, ma volevo fare una domanda riguardante la pizza, quella cioè della cottura con il forno a legna o della cottura con il forno elettrico. La mia domanda è dovuta al fatto che proprio ieri sera con mia moglie siamo andati in un ristorante che conoscevamo da tantissimi anni, dove da pochissimo hanno trasformato la cottura della pizza con il forno elettrico. Devo dire molto onestamente che i risultati sono stati oltremodo brillanti. Bene, guarda, prego. Mentre prima c'erano delle bruciacchiature laterali che a me danno sempre molto fastidio, stavolta invece la pizza era cotta uniformemente ed è stata digerita tanto da me che da mia moglie in maniera credo che il fatto di digestione non sia solamente legna. Però guardi, abbiamo un notissimo pizzaiolo di Roma, abbiamo Gabriele Bonci del Pizzarium e del panificio Bonci, a cui rivolgiamo la domanda. Gabriele, pizza forno a legna o pizza a forno elettrico? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Innanzitutto direi forno a legna o forno elettrico, l'importante è che ci sia una coscienza, ecco, da parte del pizzaiolo. Allora, se proprio andiamo a vedere i due metodi di cottura, posso dire che logicamente sono due modi completamente diversi di fare pizza. Ci vuole più impegno da parte del pizzaiolo a fare una cottura sana con il forno a legna, ma io sto anche dalla parte del forno elettrico. Il forno elettrico si pulisce subito, il forno elettrico è un forno dove tu puoi regolare la cottura, quindi puoi stare attento alle temperature sotto, alle temperature sopra e fare una cottura che vuoi tu. Certo, il romanticismo ti porta verso il forno a legna, certo, questa fiamma che brucia tu senti anche un aroma, no? È normale. Comunque oggi i pizzaioli moderni sono molto molto bravi anche sul forno elettrico. E poi attenzione, dipende anche da che forno elettrico si usa. È molto importante utilizzare dei forni elettrici dove abbiano una potenza e un controllo molto buono sulla tecnologia e su una rivoluzione, insomma, di cottura del forno elettrico, perché se il forno elettrico è un forno che perde di temperatura, non ha la capacità di sopportare un servizio di tante ore, ecco lì che anche in quel caso la pizza può diventare dannosa, perché non si cuoce bene, perché non riesce, insomma, a cucinare bene gli elementi che stanno sopra. Quindi è importante soprattutto la qualità del forno elettrico. Ecco, io volevo chiedere invece a Renato Bosco, pizzeria Saporè di San Martino Buonalbergo. Una è la scuola romana, questa è la scuola veneta che si sta diffondendo, ma voglio chiedere a Renato questo: e che differenza di costo per un pizzaiolo poi passa tra prodotti di qualità e prodotti scadenti? Mi spiego: una passata di pomodoro buono rispetto a una che arriva dalla Cina, l'olio di extravergine o di semi buono rispetto all'olio di palma e via di seguito. C'è una grande differenza, Renato? Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao Davide. Diciamo che se parliamo dell'aspetto economico e della suddivisione di un costo tra un olio buono, una farina di qualità o comunque un ingrediente di qualità spalmato nelle pizze che puoi produrre, è veramente irrisorio. Ecco, immaginavo. È irrisorio perché comunque quando tu utilizzi una qualità, partendo dalla materia prima, ne metti meno quantità all'interno della tua pizza e va tanto il gusto della pizza stessa e del contenitore e del contenuto. Sì, io mi chiedo perché invece, diciamo, ce ne sono tanti, perché attenzione, diciamo che la trasmissione Report ha fatto vedere l'olio di molte pizzerie scadente, ma io credo che se si facesse un'indagine anche su molti ristoranti, nelle cucine in fatto di olio si troverebbero delle grandi sorprese, ma questo, diciamo, è un discorso che si potrà affrontare altrove. Voglio chiedere a Massimo dalla provincia di Latino, radioascoltatore. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Io sono Massimo, da Latina, sono restaurant manager di Fior di Pizza La Naturale Bontà. Noi attualmente riusciamo a gestire contemporaneamente 5 impasti, ovviamente con almeno 24 ore di maturazione. Una cosa riguarda l'olio, ci tenevo a dirla, noi utilizziamo solo extravergine d'oliva e non condiamo mai, perché l'olio è un alimento meraviglioso, soprattutto se olio extravergine d'oliva, ma cambia la sua struttura una volta cotto. Quindi noi lasciamo che il cliente condisca da solo la propria pizza. Quindi voi non usate olio se non sul tavolo, insomma? Esatto, sì. Noi non usiamo l'olio prima di infornare la pizza, non ce lo mettiamo. Ho capito. Lo portiamo al tavolo anche con la nostra selezione di sali. Ho capito. Bene, io voglio tornare a Bonci e voglio fare un discorso di farine, perché diciamo l'altro problema che è sorto è quello della farina 00. Voglio sapere Bonci cosa ne pensa. Pronto? Pronto? No, diciamo sparita la comunicazione, lo chiedo a Renato Bosco. Beh, diciamo che c'è una grande differenza tra una farina e l'altra. Quello che volevo ribadire è che magari non passa nel concetto della produzione di una pizza. Non è la maturazione lunga che fa la differenza sulla qualità finale del prodotto, la digeribilità. È selezionare farine di qualità e saper orientare una lievitazione, magari utilizzando lievito madre se è possibile, e anche se utilizziamo lievito di birra, metterne in quantità adeguata, conoscendo però alla base il tipo di farina che stiamo utilizzando, solo attraverso una idratazione del nostro impasto e una un'aggiunta corretta di lieviti possiamo arrivare a una maturazione anche in tempi più brevi delle 48, delle 72 ore. La farina macinata a pietra, che io preferisco, la scelta è stata fatta su questa tipologia, ha una capacità di gusto e anche tenore proteico, scusate, più basso, di conseguenza vado a rispettare quello che è i tempi di lievitazione un po' più brevi a favore di un gusto, una digeribilità molto più alta. È proprio la base che noi dobbiamo pensare, perché il report ha messo in evidenza da nord a sud, da sud a nord, una difficoltà nell'approccio alla pizza, secondo il mio punto di vista. Di conseguenza, cottura nel forno legna, cottura nel forno elettrico, attenzione, il forno elettrico deve essere pulito, ci sono state delle cose messe in evidenza che devono un po' scuotere la coscienza o comunque rimettersi in discussione. Bene, io dico che c'è un problema che non è stato affrontato. Oggi è di moda, perché purtroppo è diventato di moda, non lo doveva essere, ma è diventato di moda il lievito madre, non solo sulla pizza ma anche sul pane. Io mi chiedo a Gabriele Bonci, Bonci, c'è tanta differenza fare una pizza con lievito di birra e farlo invece con il lievito madre? Assolutamente sì, la differenza è tanta, ma non dico che è migliore quella con lievito di birra o quella con lievito naturale. Bisogna mettersi in testa che il lievito naturale è una tecnica, come sfogliare un cornetto, fare una crema pasticcera, prima di tutto è una tecnica e poi una moda. Non dimentichiamoci che questa moda potrebbe essere anche pericolosa, soprattutto per chi tiene il lievito a casa. Oggi ci sono tante case di lievito, certo, che hanno lievito. Nel lievito è una carica batterica, non ci scordiamo che c'è anche la candida nel lievito naturale, se trascurato e trattato male. Deve essere pulito, bisogna stargli dietro, bisogna avere gli strumenti e la conoscenza per farlo. Va bene? Certo. Se ha la coscienza e gli strumenti per farlo, il lievito naturale è perfetto, è fantastico. Uguale nel pane. Nel pane è sempre una tecnica, quindi ci sono dei pani dove si utilizza il lievito naturale. Un panettone con lievito di birra non si può fare. E uguale ci sono dei pani dove viene usato il lievito di birra. Il lievito di birra, però, attenzione, bisogna saperlo usare. Perché l'olio di birra ha la capacità di essere, come dire, un escamotage per fare il pane veloce. Invece no, il lievito di birra va usato in maniera molto più lenta. Ci vogliono i suoi tempi. Una biga deve avere almeno 24 ore. Una lievitazione di una pizza con il naturale deve almeno superare con il lievito di birra deve superare le 24 ore. Ok? Il naturale invece ha la capacità di far diventare buono il pane anche con 12 ore di lievitazione. Già viene buono, ok? Quindi è importantissimo. Bene. Che sia una moda sana, quindi informazione. Beh, infatti, questo è il punto. Informazione, perché uno, se va oggi in una panetteria, trova tutte le signore che entrano e chiedono pane con lievito madre, non sanno assolutamente di che cosa si tratta, solo perché ormai è entrato nel linguaggio comune. Bene, io grazie a Renato Bosco e a Gabriele Bonci. Sentiamo Salvatore da Vicenza, un radioascoltatore. Buongiorno. Pronto, buongiorno, io sono Salvatore Ferraro, sono campione del mondo della pizza 2005. Ah, complimenti! La ringrazio. Senta, io ho ascoltato delle cose forse non esattamente, non mi sono tanto piaciute. Bene. Alcune cose. Intanto la lievitazione è una cosa della pizza e la maturazione ne è un'altra. Questo non è stato detto, cos'è la lievitazione e cos'è la maturazione della pizza, perché non tutti fanno i pizzaioli e non tutti sanno cos'è questa cosa. La lievitazione è quando l'impasto è fuori, lievita e gli dalle 8 alle 12 ore di lievitazione, questo si chiama lievitazione, mentre che la maturazione l'impasto viene messo in un frigo a 5 gradi e l'impasto, gli enzimi lavorano e quindi l'impasto matura nel frigo e ha un processo molto più lento. Senta Salvatore, è vero, cioè lei ha fatto questa definizione, questa distinzione, va benissimo, ma le persone che abbiamo sentito fino ad oggi sono stati dei pizzaioli, non è che erano così delle persone che passavano per caso, quindi credo che Coccia, Bonci, Renato Bosco, insomma, e Pace siano dei pizzaioli, non è che siano così di altro mestiere. Abbiamo con noi Piero Gabrielli, che è direttore marketing del Molino Quaglia. Il Molino Quaglia ogni anno organizza, diciamo, un campus, poi non so se è la parola esatta, si chiama Pizza Up, dove vengono confrontate le varie esperienze e anche le varie tecniche. Quindi è stato messo a punto anche un manifesto per la pizza italiana. Ma voglio chiedere a Gabrielli, che visto che sono, mi sembra, 3 anni che porta avanti questo discorso, ecco, la professionalità dei pizzaioli sta crescendo e quali sono i temi che più vengono dibattuti e diciamo che sono di cui la categoria è più carente? Buongiorno Gabrielli. Salve Davide, allora sì, Pizza Up non 3 ma 7 anni. Ah, 7 anni. Il progetto, sì, iniziamo 7 anni fa e l'obiettivo era quello di parlare in positivo della pizza, per cui noi abbiamo continuato a farlo. Per farlo abbiamo individuato degli strumenti che sono abbastanza comuni, abbiamo costruito una scuola che si chiama Università della Pizza, abbiamo come azienda di ingredienti promosso un investimento per riportare alla luce la macinazione a pietra di famiglia, per cui una farina che già dal grano utilizza colture sostenibili. In sostanza tutti questi argomenti erano i tasselli che poi, trasmessi al pizzaiolo e ai consumatori, gli permettono di individuare una qualità che non sia soltanto la bontà del cibo intesa come gusto, ma anche la parte nutrizionale. E quindi questi argomenti ci siamo resi conto, andando avanti nel tempo, che sono quelli che il consumatore vuole approfondire maggiormente. E quindi quei pizzaioli che riescono a interpretare con il loro prodotto una risposta a queste richieste di un'alimentazione più sana, sicuramente hanno successo, nel senso che il consumatore, a prescindere se sta mangiando una pizza napoletana, una pizza romana o una pizza milanese, comunque quando torna a casa ha bisogno di sentirsi leggero, ha bisogno di non avere delle reazioni fastidiose per quello che ha mangiato. Questo direi che è l'esigenza oggi più importante di chi viene a trovarci, sia a Pizza Up sia a Università della Pizza. Le posso dire in chiusura che il progetto, a distanza di 7 anni, oggi ha circa 400.000 consumatori abituali delle nostre farine, che quindi insieme alle farine cercano un prodotto che ha naturalità anche in termini di pomodoro e di mozzarella, per cui niente conservanti, prodotti freschi, e una community che dialoga continuamente sui social network. Bene, e vedo che non ho letto nessun sms perché veramente sono tanti e tanti erano le telefonate, però tutti indicano il pizzaiolo preferito, indicano il nome, il cognome, avrei potuto anche leggere, ma io così consiglio chi è intervenuto su questo, che sul sito del Gastronauta c'è in corso un sondaggio proprio sul pizzaiolo numero 1, quindi si può benissimo votare e queste, diciamo, preferenze che avete espresso qui potete esprimerle su un vero e proprio sondaggio. Io voglio andare ora da Antonio Lucisano, che è direttore del consorzio Mozzarella Campana DOP. Perché? Perché molti dicono arriva la mozzarella arriva dall'estero, ma questo mi sembra che anche qui abbiano svelato il segreto di Pulcinella, visto che tutti sanno che il più grosso produttore di mozzarella non Campana DOP è in Germania. Antonio Lucisano, ma quanto ne arriva dall'estero di questa mozzarella che finisce nelle pizzerie? Hai voglia, ahimè, tantissima. Infatti quello che noi suggeriamo al consumatore oggi è di leggere innanzitutto il menù, perché è evidente che se un pizzaiolo vuole offrire un prodotto di grande qualità, la prima cosa che farà è argomentare bene quali sono gli ingredienti che utilizza sui vari tipi di pizza. Dire genericamente mozzarella, dire genericamente pomodoro, dire genericamente prosciutto evidentemente significa poter poi assaggiare dei prodotti di qualità molto bassa, spesso di provenienza estera. Altro è leggere mozzarella di bufala campana, pomodoro San Marzano, prosciutto di Parma o di San Daniele e quant'altro. Io credo che in questo momento, devo dire, sul mercato delle pizzerie si stia evolvendo molto in questa direzione, cioè della ricerca di ingredienti di grande qualità, di ingredienti italiani, di ingredienti del territorio, e devo dire ciò che lascia perplessi è come mai in questo momento nasce una polemica proprio quando c'è questa tendenza a migliorare la qualità del prodotto, sia in termini di ingredienti sia in termini di digeribilità. E anche da questo punto di vista credo che noi consumatori, non essendo pizzaioli, abbiamo un metodo molto semplice di valutare la qualità del prodotto che abbiamo mangiato, perché la digestione di una pizza, se la pizza non è di grande qualità, evidentemente non è proprio di quelle facilissime. Quindi il consiglio è: leggiamo bene il menù, vediamo cosa ci propinano sulla pizza, stiamo bene attenti a come la digeriamo, e naturalmente se la pizza è bruciata e non è una pizza fatta da un pizzaiolo che la sappia fare, ma voglio dire, in questo senso a Napoli esiste una tradizione millenaria, lasciatemi dire, sulla pizza, e credo che ci sia in questo momento un fenomeno molto positivo, che è quello di una serie di pizzaioli che stanno davvero facendo scuola, facendo qualità e per gli ingredienti e per gli impasti e per le modalità di cottura. Grazie, sentiamo Lucia dalla provincia di Firenze, una radioascoltatrice. Buongiorno Lucia. Buongiorno David, io volevo fare una domanda. Mio marito tutte le volte è diabetico, tutte le volte che mangia la pizza gli alza la glicemia. Posso fare una pizza io che eviti questo discorso di glicemia? Cioè... Ma credo che sia molto complicato, credo che prima bisogna fare delle analisi da un medico che dica esattamente da che cosa dipende, diciamo, questo tasso di glicemia, e poi, diciamo, argomentando ai contrari, se andare indietro e verificare su questo tema medico. Credo che sia meglio che siano i medici a intervenire. E c'è una radioascoltatrice che io non riesco a, diciamo, a far intervenire perché manca pochissimo tempo. Sandra da Roma, vedo che parla della campagna della pizza bene dell'UNESCO, e ho avuto anche altri sms. Allora io su questo sarò molto duro e dico che fino a quando imbroglieremo gli stranieri con delle pizze surgelate spacciate per pizza invece fresca con ingredienti di dubbia provenienza, sarà meglio che non presentiamo proprio niente all'UNESCO. Anzi, dovremmo in primo luogo, visto che esiste un STG che è stato chiesto e gli stessi pizzaioli che lo hanno chiesto dicono che è impossibile rispettare, ecco, sarà meglio che ancora aspettiamo un secondo a presentare all'UNESCO delle domande con la pizza bene dell'umanità. Mi spiace non poter rispondere a molti altri radioascoltatori. C'è un radioascoltatore che chiama da Torino che parla del lievito madre. Il lievito madre è un discorso molto lungo, abbiamo fatto una trasmissione tempo fa, molto complicato come avete sentito. E poi ci sono radioascoltatori che mandano sms e parlano di locali giro pizza dopo la qualità è scadente. Cari signori, bene, se vedete il prezzo forse potreste anche un po' ragionare. A quel prezzo mangiare 2-3 pizze, mi chiedo cioè quali siano i componenti di quella pizza. È come l'olio che si trova in certi supermercati a 1,99, olio di oliva extravergine o tanti altri prodotti. Quindi io credo che gli ingredienti siano fondamentali, però la mia idea sulla pizza è che la pizza deve avere un primo prerequisito, la digeribilità, e la digeribilità dipende dall'utilizzo di prodotti di qualità e da tanti altri fattori tecnici che oggi abbiamo visto e abbiamo sentito raccontarci da pizzaioli di indubbio valore, che sono riconosciuti appunto per la loro qualità e la loro professionalità. Bene, non mi rimane che augurare a tutti, magari fra qualche ora, buona pizza o magari stasera, e buona digeribilità. Ringrazio Giorgio De Luca in redazione e Filippo Aureggi in regia. Buon weekend a tutti da Davide Paolini.